Il papà e zio Harry si scambiavano il lavoro. Quando il grano era maturo nei campi, zio Harry veniva a lavorare con papà e zia Polly con tutti i cuginetti veniva a passare la giornata a casa loro. Poi il babbo andava ad aiutare lo zio a falciare il suo raccolto e la mamma prendeva con sé Laura, Mary e Carrie per passare una giornata dalla zia Polly. La mamma e la zia lavoravano in casa e i cugini giocavano insieme nel cortile fino all'ora del pranzo. Il cortile della zia Polly era un bel posto per giocare perché c'erano parecchi ceppi e tronchi d'albero. I bambini giocavano a saltare di tronco in tronco senza mai toccare terra. Persino Laura, che era la più piccola, poteva farlo facilmente nei posti dove gli alberi più piccoli erano cresciuti vicini. Il cugino Charlie era un ragazzo grande, aveva quasi 11 anni e poteva saltare di tronco in tronco per tutto il cortile. Quelli più piccoli riusciva a saltarli a due alla volta. E riusciva a camminare sulla palizzata senza avere paura. Il babbo e lo zio erano fuori nei campi a tagliare l'avena con le falci. Una falce era una lama d'acciaio tagliente, allacciata a una serie di denti di legno che servivano a trattenere gli steli delle messi quando la lama li aveva recisi. Papà e zio Harry tenevano le falci per i loro lunghi manici incurvati e passavano avanti e indietro le lame nell'avena alta. Quando ne avevano tagliata abbastanza da farne un mucchio, tiravano via gli steli recisi dai denti di legno e li raggruppavano in cumuli ben divisi sul terreno. Era un lavoro duro. Bisognava andare avanti e indietro lungo il campo sotto il sole caldo e spingere con entrambe le mani le pesanti falci fra le messi, tagliandole e quindi raggruppandole in mucchi. Dopo che tutte le messi erano state tagliate, papà e zio Harry dovevano andare di nuovo sul campo. Questa volta dovevano chinarsi su ogni mucchio e, prendendo un pugno di steli in ogni mano, dovevano legarli assieme per formare una specie di fune. Quindi, mettendo insieme il mucchio raccolto con una bracciata, facevano passare intorno ben stretta quella fune fatta di steli e la annodavano, ripiegando le cime all'interno. Dopo aver fatto 7 di questi fasci, dovevano comporli insieme in un covone. Per fare un covone di avena o di grano, mettevano insieme, appoggiati con le cime verso l'alto, 5 mucchi ben pressati fra di loro. Sopra questi venivano posti gli altri due, con gli steli che venivano sparsi sopra per formare una specie di piccolo tetto che riparava i 5 mucchi sottostanti dalla rugiada e dalla pioggia. Ogni stelo dell'avena tagliata doveva trovarsi al sicuro in un covone prima del calar della sera. Se fosse rimasto sul terreno umido per tutta la notte, si sarebbe rovinato. Il papà e lo zio lavoravano sodo perché l'aria era pesante e calda e tutto era così immobile che pareva dovesse piovere da un momento all'altro. L'avena era matura e se non fosse stata tagliata e raccolta nei covoni prima dell'arrivo della pioggia, il raccolto sarebbe andato perduto e i cavalli dello zio avrebbero sofferto la fame per tutto l'inverno. A mezzogiorno papà e zio Harry vennero verso casa in gran fretta, divorando la loro colazione nel minor tempo possibile. Zio Harry disse che Charlie avrebbe dovuto aiutarli quel pomeriggio. Laura guardò il babbo quando zio Harry disse questo. A casa papà aveva detto alla mamma che zio Harry e zia Polly rovinavano Charlie. Quando il babbo aveva 11 anni, svolgeva ogni giorno il duro lavoro dei campi, guidando una pariglia di cavalli. Charlie invece non faceva quasi mai niente. E adesso zio Harry diceva che Charlie doveva andare al campo. Il ragazzo poteva far risparmiare loro un sacco di tempo andando alla sorgente a prendere acqua, portando la brocca quando avevano bisogno di bere e porgendo loro la pietra per affilare quando le lame delle falci dovevano essere affilate. Tutti i bambini guardarono Charlie. Lui non voleva andare nei campi, preferiva rimanere a giocare nel cortile, ma naturalmente non lo disse. Papà e zio Harry non si riposarono affatto, mangiarono di furia e tornarono subito al lavoro e Charlie andò con loro. Mary era la maggiore e voleva giocare a un gioco tranquillo, da grande, così quel pomeriggio i cugini misero su una casa in miniatura nel cortile. I tronchi degli alberi erano le sedie, le tavole, le stufe e le foglie erano i piatti e dei rami spezzati erano i bambini. Sulla strada del ritorno verso casa quella notte, Laura e Mary udirono il babbo raccontare alla mamma ciò che era successo nel campo. Invece di aiutare, Charlie aveva combinato quanti più guai aveva potuto. Si era sempre messo fra i piedi, disturbandoli mentre falciavano. Aveva nascosto la pietra per affilare, di modo che loro avevano dovuto cercarla quando ne avevano avuto bisogno. Aveva portato la brocca dell'acqua solo dopo che lo zio glielo aveva urlato 3 o 4 volte in più, facendo il muso. Dopo che era stato sgridato, li aveva seguiti in giro per il campo, parlando e chiedendo un sacco di cose. Il lavoro era troppo faticoso perché potessero badare al ragazzo e così gli avevano detto di andarsene via e di non disturbarli. Ma avevano subito lasciato cadere le falce ed erano corsi verso di lui attraversando tutto il campo quando lo avevano sentito urlare. C'erano i boschi tutti intorno al campo e nella vena si rintanavano spesso le vipere. Quando giunsero vicino a Charlie, scoprirono che lui non si era fatto niente, anzi rideva, prendendoli in giro e dicendo: "Ve l'ho fatta questa volta". Papà disse che se lui fosse stato zio Harry avrebbe conciato quel ragazzo per le feste. Ma lo zio non aveva voluto, così avevano bevuto un sorso d'acqua ed erano tornati al lavoro. Per 3 volte Charlie aveva urlato e loro erano corsi quanto più in fretta potevano e lui si era burlato di loro. Pensava che fosse un bello scherzo quello. E ancora lo zio non si era deciso a castigarlo. Poi per la quarta volta lui aveva urlato e più forte di prima. Papà e zio Harry lo avevano guardato da lontano e lui era lì che saltellava su e giù mentre urlava. Non videro niente che potesse preoccuparli in tutto questo ed erano stati presi in giro già tante volte che andarono avanti nel loro lavoro. Charlie però aveva continuato a gridare più forte di prima e con maggiore insistenza. Papà non aveva detto niente, ma zio Harry aveva esclamato: "Lasciamolo strillare!" E così avevano fatto. Lui aveva continuato a saltare su e giù gridando. Finalmente lo zio aveva detto: "Forse c'è veramente qualcosa che non va." Così avevano lasciato a terra le falci, attraversando il campo per andare verso di lui. E per tutto quel tempo Charlie aveva continuato a saltare su un nido di vespe. Le vespe vivevano in un nido sul terreno e Charlie lo aveva pestato per sbaglio. Allora tutte quelle piccole vespe erano venute fuori a frotte con i pungiglioni ben dritti e avevano punto Charlie tanto che non era più potuto scappare via. Stava ancora saltando su e giù e centinaia di vespe lo stavano pungendo da tutte le parti. Gli pungevano la faccia, le mani, il collo, il naso, gli si erano infilate su per i pantaloni e giù dal colletto fino nella schiena e pungevano a tutto spiano e più lui si agitava, più loro lo pungevano, forsennatamente. Papà e zio Harry lo avevano preso per le braccia e lo avevano portato via di peso dal vespaio. Lo avevano spogliato e i suoi abiti erano pieni di vespe. Le loro punture gli si stavano gonfiando su tutto il corpo. Avevano ucciso le vespe che lo stavano ancora pungendo e avevano scrollato via quelle altre che erano nei suoi vestiti. Poi lo avevano rivestito e lo avevano rimandato a casa. Laura, Mary e i cugini stavano tranquillamente giocando nel cortile quando avevano sentito piangere e singhiozzare sonoramente. Charlie era comparso in lacrime nel cortile e la faccia gli si era talmente gonfiata che le lacrime gli uscivano a malapena dagli occhi, ridotti a due fessure. Anche le mani gli si erano gonfiate, anche il collo e le guance erano grosse e dure come due meloni. Le dita delle mani erano dritte e gonfie anch'esse, c'erano dei piccoli segni bianchi e duri su tutta la faccia e sul collo. Laura, Mary e i cugini erano rimasti in piedi, fermi a guardarlo. La mamma e zia Polly erano corse fuori dalla casa e gli avevano chiesto cosa fosse successo. Charlie balbettava e singhiozzava. La mamma aveva detto che erano state le vespe. Era corsa nel giardino e aveva preso un bel pezzo di terra mentre la zia aveva portato Charlie in casa e lo aveva spogliato. Avevano poi fatto un grande impiastro di fango e glielo avevano spalmato addosso. Poi lo avevano avvolto in un vecchio lenzuolo e lo avevano messo a letto. Gli occhi gli si erano talmente gonfiati che non riusciva a vedere il naso, e il naso aveva assunto una strana forma. La mamma e la zia gli avevano coperto anche la faccia col fango e gli avevano applicato sopra delle pezze di tessuto. Gli si vedeva alla fine solo la punta del naso e la bocca. Zia Polly aveva fatto macerare alcune erbe e gli aveva fatto bere il decotto contro la febbre. Laura, Mary e i cugini erano rimasti per un poco lì a guardarlo. Faceva buio quella sera quando papà e zio Harry ritornarono dal campo. Tutta la vena era stata raccolta nei covoni e adesso la pioggia poteva pure venire, non avrebbe fatto nessun danno. Papà non poteva rimanere per la cena, doveva andare a casa a mungere le vacche che lo stavano già aspettando. Se non le avesse munte in tempo non avrebbero dato abbastanza latte. Aveva attaccato in fretta i cavalli alla carrozza e aveva fatto salire tutti. Era molto stanco e le mani gli facevano male, in modo che non poteva guidare tanto bene, ma i cavalli conoscevano la strada di casa. La mamma si era seduta accanto a lui con Carrie e Laura e Mary si erano sedute sul sedile dietro a loro. E allora avevano sentito raccontare dal babbo ciò che Charlie aveva fatto. Laura e Mary restarono inorridite. Anche loro erano spesso disobbedienti e dispettose, ma non avrebbero mai immaginato che qualcuno potesse essere cattivo come lo era stato Charlie. Non aveva lavorato per mettere a riparo la vena. Non aveva dato retta a suo padre quando lui gli aveva parlato e aveva disturbato il papà e lo zio mentre stavano lavorando sodo. Poi papà aveva raccontato del nido di vespe e aveva detto gli sarà servita da lezione a quel piccolo bugiardo. Dopo che fu messa a letto quella notte, Laura rimase sveglia ad ascoltare la pioggia che batteva sul tetto e che gorgogliava nelle grondaie e pensò a ciò che il babbo aveva detto. Pensò a ciò che le vespe avevano fatto a Charlie, pensò che lui se l'era meritato perché era stato così cattivo e le vespe avevano il diritto di pungerlo dato che aveva calpestato la loro casa, ma non capì perché papà lo avesse chiamato piccolo bugiardo. Non capiva come Charlie potesse essere considerato un bugiardo, dato che non aveva detto nemmeno una parola. Il giorno dopo, papà tagliò le cime di parecchi mucchi d'avena e portò la paglia gialla e pulita alla mamma. Lei la mise in una vasca d'acqua per ammorbidirla. Poi si sedette accanto alla vasca e intrecciò i fili di paglia. Ne prese alcuni, legò insieme le cime e cominciò a intrecciarle. La paglia era di diversa lunghezza e quando lei arrivava alla fine di un filo, ne prendeva uno nuovo dalla vasca e continuava a intrecciare, lasciando ricadere nell'acqua la cima della fune intrecciata. Continuò a intrecciare finché non ottenne diversi metri di corda. Per molti giorni intrecciò fili di paglia fra di loro durante tutto il suo tempo libero. Fece così una treccia sottile e liscia usando 7 fili di paglia più piccoli e una più larga con 9 fili più grossi. Poi vi fece delle dentellature lungo i bordi. Infine, con i fili più grandi, fece la treccia più larga di tutte. Quando tutta la paglia fu intrecciata, infilò in un ago del filo bianco, robusto, e cominciando dal capo di una treccia, prese a cucire tutto intorno, tenendola piatta, e ottenne così un piccolo disco e disse che era la parte superiore di un cappello. Poi tenne la treccia più stretta su di un lato e continuò a cucirvi intorno. La treccia si strinse e scese formando i lati della parte superiore. Quando la parte superiore fu alta abbastanza, la mamma tenne di nuovo la treccia più lenta e continuò a cucire ancora intorno, intorno, ottenendo così la tesa del cappello. Quando la tesa fu abbastanza ampia, la mamma tagliò la treccia e cucì svelta la cima di modo che non si potesse più sciogliere. In questo modo preparò dei cappelli per Mary e per Laura, ottenuti con le trecce più fini e sottili. Per il babbo e per sé fece dei cappelli con le trecce più grosse e quello fu il cappello della domenica del babbo. Poi lei gli confezionò con le paglie intrecciate più grezze anche 2 cappelli per tutti i giorni. Quando finiva un cappello, la mamma lo metteva ad asciugare su di un asse, dandogli una bella forma, e quando era asciutto rimaneva esattamente della forma che lei gli aveva dato. Faceva dei cappelli bellissimi. A Laura piaceva rimanere a guardarla. Imparò così come intrecciare la paglia e fece anche un cappello per la sua Charlotte. I giorni si facevano più corti e le notti più fredde. Una notte Gianni Brina passò da quelle parti e al mattino c'erano colori più brillanti qua e là fra le verdi foglie e i grandi boschi. Poi tutte le foglie smisero di essere verdi, divennero gialle, scarlatte, rosse, dorate e brune. Lungo lo steccato il sommacco mostrò i suoi grappoli di bacche rosso scuro, in contrasto con le foglie colorate vivacemente di rosso fiamma. Le ghiande si misero a cadere dalle querce e Laura e Mary le utilizzavano per fare piccole tazze e piattini per la casetta delle bambole. Noci e nocciole caddero al suolo nei grandi boschi e gli scoiattoli sgambettarono dappertutto, affaccendati per mettere insieme la loro provvista invernale di noci, nascondendole nei tronchi cavi. Laura e Mary andarono con la mamma a raccogliere noci e nocciole. Le stesero al sole perché si seccassero, poi ruppero i malli e misero le noci nella soffitta per l'inverno. Era veramente divertente raccogliere le grandi noci tonde e le piccole nocciole che crescevano a grappoli sui cespugli. Lo strato più esterno della buccia delle noci era pieno di un liquido bruno che macchiava le mani, ma i gusci delle nocciole erano profumati e avevano anche un buon sapore. Quando Laura cercò di rompere coi denti una nocciola, adesso tutti erano indaffarati perché le verdure dell'orto dovevano venire riposte. Laura e Mary aiutarono a raccogliere le patate polverose dopo che il babbo le ebbe estratte dal terreno. Tirarono fuori anche le lunghe carote gialle e le rape rotonde dal colletto rosso e aiutarono la mamma a cuocere la zucca per fare le torte. Con un coltello da macellaio, la mamma tagliò le grandi zucche color arancione in due metà. Tirò via i semi dal mezzo e tagliò la polpa in lunghe fette cui tolse le bucce. Laura l'aiutò a tagliare a pezzi le fette. Poi la mamma mise i pezzi così ricavati nella grande pentola di ferro sulla stufa. Vi gettò dentro un po' di d'acqua, un po' d'acqua e rimase a sorvegliare mentre la zucca poco a poco bolliva. Bollì per quasi tutto il giorno. Tutta l'acqua e il succo dovevano evaporare, però la zucca nello stesso tempo non doveva bruciarsi. La zucca era diventata una densa, scura e profumata purea nella pentola. Non bolliva come l'acqua, ma salivano alla superficie delle bolle che di colpo scoppiavano, lasciando dei buchi che si chiudevano subito. Ogni volta che una bolla scoppiava, si sentiva il buono e caldo profumo della zucca. Laura rimase su una sedia a sorvegliare la zucca al posto della mamma e mescolava di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Teneva il cucchiaio con entrambe le mani e rimestava con attenzione perché se la zucca fosse bruciata non ci sarebbe stata nessuna torta. Per colazione mangiarono zucca cotta e pane. La versarono in belle forme nei loro piatti. Il colore era stupendo e la zucca si lisciava e si modellava benissimo con il coltello. La mamma non permetteva mai che si giocasse col cibo a tavola. Le bambine dovevano sempre mangiare come si deve, tutto ciò che veniva messo loro davanti, e non dovevano lasciare niente nei piatti. Ma questa volta le lasciò modellare in forme graziose la densa crema della zucca cotta prima di mangiarla.